Claudio Di Muros, ben sentito. Avanti Eugenio. Sì, beh, effettivamente mi sta dando, aspettate un attimo. Sto entrando in circolazione adesso. Capito? Deve ancora scaldare sto coso. Dopo le scalda magari qualcosa in più la dà. E allora già cosa mi racconti? Niente di che, oggi sto aspettando a chiamarmi per operarmi, devo fare anche l'altra anca, quindi sono un po' in tensione. Mamma mia, queste cose vanno a rompere le scatole. Vabbè, in bocca al lupo per tutto. E allora, Riccardino, questo caratteristico l'abbiamo rifatto? Più o meno, adesso gli ha... gli ha tolto la parte di sopra, meno male ha cacciato nel gruppo, pesavano un bel quelle sbarre, quelle che stavano sopra, e l'ha un po' sistemato, adesso vediamo se magari riesce a mettergli un cassone, se no già si lascia così. Ma sto io quel caratterizio, lo sai, ci siamo messi con suo padre prima. L'ho sbarcato io dalla Grimaldi, quel caratterizio americano, mamma mia, ogni cosa grande. Già lo so, me l'aveva detto che vi eravate organizzati la prima barca e che era arrivato con la nave. Roberto, di mese. Come trovo 5 minuti salgo, salgo e vediamo un po'. Mi piacerebbe fare una bevizia tua speciale. Sì, io non ti preoccupare. Adesso già stai salendo ancora un po' di più di sennaio, devo stabilizzare la radio. Come stazionaria come sei messo? Stazionaria non lo so perché il rosmetro non è un... nella cosa ci dava 1,2 nel... si è piazzata bene, ma io l'ho piazzata come da manuale. Il manuale dice 1,2. Poi non lo so, io rosmetro non è un... Scusate, questo è il 44 o il 14, ricordami? Il 14. Ebbene, non c'è un fatto dove c'è scritto SWR. No, non ce n'è qua. Basto per Roberto, no, non ce l'ha. Ah, mi sembra strano. Natali, che forse sei più informato di me, io mi ricordo che il 14 c'è scritto LC Power e SWR per commutare. Ci sono tre scale nel display dove c'è il lago, non c'è nella parte bassa, c'è scritto 1, 1 e 5, 2 e infinito. No, c'è nel display c'è il segnale e sotto il segnale c'è PWR che sarebbe il watt e basta. E sotto di quello non c'è scritto SWR? No, sotto di quello c'è scritto ALC, una cosa del genere. Adesso me ne guardo uno su internet, per cui io mi ricordavo che c'era la commutazione. Natali, tu che forse sei più memorizzato di me. No, il 140 io non l'ho mai avuto, quindi non lo so. Nel 440 già c'è ALC, PVR e SWR. Ma il 140 non me lo ricordo, la verità. Adesso sto guardando per curiosità su internet, io l'ho avuto, però vediamo un po'. Vai Gianni. Ehi, ma quelle antenne lì, Eugenio, se c'è sempre la stessa, danno 1,1. 1,1, 1,2 al massimo, da piazzata danno quel tanto lì di stazionare, non vanno di più. Sì, sempre quella, già, sempre quella. Ha preso tanto di quel vento, tante quelle burrasche, sempre lì. Sempre quella, no, non l'ho cambiata, sempre quella. Vado vicino a pizzi. Riccardino! Non è oggi, adesso c'è uno che sta vendendo il display, proprio c'è solo la potenza, sotto e sopra c'è i dB del coso, del segnale, intensità del segnale. C'è qualcuno che sta cercando di entrare, avanti chi ogni tanto si sente un colpo importante. Vai Riccardino. Va bene, vado un attimo a mangiare, vado un attimo a cenare, poi magari se c'è qualcuno già rientro. Saluto tutti per il momento, già ci sentiamo per le prossime, se c'è qualcuno, come ho detto, già rientro volentieri. Ciao Riccardi, stammi bene, dai, stammi bene, buona carica con la... Sì, ciao Riccardo, io non lo so, troppo costato, anche io vado a mangiarmi qualcosina che si sta già monitorando lo stomaco e emozionando. Ok, ti saluto, passa come passa, vabbè, passa qua, quando vuoi, già lo sai, Riccardo, poi quando vuoi, se per caso c'è qualcuno, io non è che c'entro tutti i giorni come prima, ma quando c'è gente entra senza motivo, di assieme ne accetto ed è un piacevole parlare, è un piacere parlare con te. Ok, ciao ciao, saluto a tutti in casa, vai Natalia. Ciao Riccardì, alle prossime, entra quando vuoi, sei sempre ben accetto qua, non c'è problema. Grazie per essere entrato e per le quattro chiacchiere. Io saluto tutti, ne approfitto di questo passaggio e me ne passo in quel recinto. Ciao Antonio, buon corretti e buona carica se non l'hai fatta. C'è anche chi l'ha ruggito, avanti. Ciao Claudio, buon tutto, dai, saluti in casa, ci sentiamo presto. Eugenio, se vuoi salutarlo, Mari, anche se non credo che ti ascolti, poi gli faccio la fonte io. Volevo salutare Riccardino, salutarmi anche a Sergio, il padre, che poi non lo vedo adesso. Vabbè Riccardi, già ci sentiamo, mi ha fatto un enorme piacere sentirti, dai, entra più spesso, dai, che ci sentiamo meglio. Mi raccomando, saluti a tuo padre. Ciao anche a te, come si chiama, chiedo il giunto di Muro, se mi senti, no? Vabbè, salutalo bene. Ok, adesso stai arrivando anche più forte come modulazione, 9:10 sta arrivando, bello pieno. Muro, su Claudio, salutoni da Eugenio. Va bene, cosa volevo dire? Mi fa ridere, adesso sto pensando a Massimiliano che lo chiamava, si confondeva, anziché Chiodo Ruginito, diceva Chiodo Ruginusso, in sassarese. Ciao Chiodo Ruginito, buon corretto. Cosa volevo dire? Eugenio, Lerli, cos'è? Devi cambiare con Lerli o cosa devi fare? Adesso c'è l'infezione di verniciatura tutta, però voglio fare una verniciatura metal free, se conosci Venezia, sì. E quegli effetti tipo perlati molto, molto evidenti, dai. Esattamente, a grana grossa, lucida però. Sì. Che colore? Ma non lo so, se volevo farla, blu elettrico. Ma dimmi una cosa, il nero metallizzato grosso si può fare? Tutto puoi fare, però sono entri prostrato, se vuoi quell'effetto tipo macchina della giostra dei bambini, quelle dell'autoscontro, della giostrina, che hanno quell'effetto di cosa? Sono delle perline che si miscano, o nel trasparente oppure lo dai sopra la base opaca, devi fare nero, poi gli dai, gli sputi queste perline in modo che si appiccicano sopra, ci sono di tutti i colori, dorate, argentate, effetti strani, rosate, dai, prendono un po' di tutti i tipi e poi si dà trasparente sopra. Qualcuno lo mischia sul trasparente, lo dà insieme, dipende dall'effetto che vuoi dare. Sì, proprio quell'effetto lì, quello il metal flake grosso, però lucido, perché rimane, molti lo fanno, però rimane opaco, rimane, si vuole la grana grossa, io lo voglio lucido, che mi ci specchi, è possibile? Certamente che sì, opachi è sbagliato, cioè non è un effetto bello visibile, sul lucido cavolo se viene, è una cosa bella. L'unico problema di questa cosa, lo sai cos'è Uge? Cioè sono delle particelle, non è come polvere di alluminio o di alluminio, perché l'alluminio è una polvere, è uniforme, tutti della stessa grana, tipo lo zucchero, eccetera, eccetera, per fare un esempio volgare, diciamo. Di lì sono delle particelle, sono delle scaglie di metallo, tipo quando sai le spame del pesce, le vite che sono un pochettino una di una misura, una dell'altra. L'effetto è così, ti fa questo effetto lenticolare, si chiama, perlaccio, metallescente, chiamano un po' come vuoi tu, ognuno lo chiama nel modo suo. Se devi fare il retto che viene c'è tutta la moto in treta, e quell'altro gatto. Sì, quello sono accorrente. Vabbè, poi quando saliamo lo vediamo. Perché Fighter c'è anche nero Metal Flake, però il nero se lo fa Metal Flake rimane più sul grigio, così è. No, non c'entra niente. Allora tu c'hai una base nera, rimane tutto nero sopra, e nero li metti queste particelle di metallo, chiamiamola metallo, che sono delle scaglie di mica normalmente, e ti fanno tipo che c'è delle piastrine sopra, tipo dei coriandoli, per fare un esempio, detto coriandolini piccolini infinitissimi, tu lo metti sopra il nero e poi diventa trasparente, ti fa questo effetto metallescente. Sì, sì, conosco la Bellisatto, la conosco, mi piace proprio, sulla mia è una figata. Poi salirò e vedremo un po' quanto si spende per fare il tutto. Scappa, naturalmente sul grigio non rende assolutamente, a meno che non gli dai quelle dorate, solo però una gagattina. Io le ho visto verdi, bellissime, un effetto spettacolare, il blu lo stesso rende tantissimo, il nero forse è quello che rende più di tutti, però il problema del nero è che è sempre sporco, è un colore molto delicato, eccetera. Se vai sulle tonalità più chiare, sul blu, diciamo un bluastro, va bene. Facciamo prendere a Gianni, se no si annoia. Vai Gianni. No, io so ascoltare, sempre c'è da imparare. E quello è vero, c'è sempre da ascoltare, sempre da imparare in tutti i campi, in tutti i settori, e se hai l'umiltà di ascoltare e di prendere nozione di quello che ti dicono, io non voglio fare presuntuoso, che ci mancherebbe, però in altri argomenti anche io ascolto tantissimo di cose che mi fa piacere scoprire le novità, eccetera. Vai Roger. E comunque vai, ti assalgo, ne parliamo di persona. Ok, riprenditela. No, è che ci possa fare. Ecco, quello è che non c'è un problema a farlo, mi titoli. No, si può fare qualunque cosa, addirittura puoi anche mischiarli, anche se lo sconsiglio, non so se l'hai mai visto in giro con la macchina faccia di quella New Beetle, che ha quegli effetti, sembrano delle onde di colore, cioè parte da un azzurro, viola, verde, tipo un arcobaleno, e li mischi anche i colori, addirittura in mezzo alla trasparente li mischi dei colori, gli dai delle sfumature, ma diciamo non è che mi piacciono più di tanto, sono effetti, così li fanno quando fanno delle prove particolari, magari voi fate qualche pezzo dimostrativo, questo sta fatto la macchina così, però sinceramente. Poi adesso, a parte vabbè, i film di coso, di adesivo, si sceglie di qualunque colore, però la moto è un po' complicato perché la moto non ha superfici piane, tipo una macchina, perché se devi fare il serbatoio non riesci a farla aderire bene, eccetera, eccetera. Adesso c'è un'altra novità, anche se esiste da qualche anno, però sta prendendo piede, sono delle pellicole a spruzzo, che tipo, se presente un, per fare un esempio sempre volgare, tipo la catramina o un catramino così, che tu glielo spruzzi sopra quando le pistole particolari hanno ugelli molto larghe, e ti lasciano un effetto tipo un adesivo sopra, ci sono di diversi colori, sono colori RAL, ci sono centinaia di colori, addirittura ci sono anche metallizzati, ho visto che stanno facendo, e tu ti lascia una specie di pellicola sopra, non ti biasi, l'hanno preso e dice voglio cambiare colori, tiri, te la togli e ti fai un altro colore. L'ho già usata. Una pellicola gommosa ti lascia sopra, sembra che è una motore verniciata, sì, l'ha fatta mio amico, se l'ha fatta rossa, quello Beetle era di mio cugino, era del presidente della Fiat 500 Club di Florinas. Ah, lo conosci il presidente del 500 Club? È tuo cugino? Sì, lo conosco, è mio cugino. E degli altri se ci conosce a noi, che l'abbiamo portato da lì, te l'hai vista la spiaggina che abbiamo fatto? Sì, l'ho vista in opera e l'ho vista anche finita. A Florina c'era la regina della festa, l'abbiamo portata, c'erano centinaia di persone, tutti sono come si chiama tuo cugino? Ricordami il nome. Salvatore, già è lui, non c'era a sbagliare, e mi ha dato anche la maglietta del club, ci può essere bellissima quella maglietta, bella, una io e una mio fratello, e gli ha dato la mio fratello, e lui l'ha voluta pagare lo stesso, veramente bella quella maglietta con quel simbolo. È venuto il presidente nazionale del 500 club, che era 1,90 m questo qua, una montagna, con la moglie, ha detto come si fa a posarsi in questa macchina, però ha fatto uno spettacolo, tutti entusiasti quando l'hanno vista. Cosa ti volevo dire? E poi c'è l'ultimo ritrovato delle vernici. amici che... Aspetta, facciamo il telefonatemi la già. Gianni. Ehi, ehi, sono qua. Vi stanno ascoltando, non c'è problema. Continuate, non c'è problema, non ti mette dei problemi, roba. Io ascolto. Ah, no, stavo parlando di vernici, dai, è il mio campo. A BMW sto facendo adesso delle macchine, costano anche un pochettino, a cristalli liquidi, la verniciatura a cristalli liquidi, cioè c'è uno strato di cristalli liquidi tipo quelli display delle cose, dei televisori eccetera eccetera, dai, e le calcolatrici, che tu ti scegli il colore, cioè c'è un telecomando per dire la voglio argento, tac, schiacci e diventa argento, la voglio verde, tac, ci sono dei micro cristalli all'interno che a seconda della tensione che li dai cambiano di colore. Ti fai la macchina gialla, verde, tipo i diodi LED, che a seconda della tensione che li stai dando ti cambiano di colore. È così lo stesso principio applicato sulla vettura, solo sono delle cose sperimentali su certe macchine, diciamo di alto rango, l'hanno fatto, sono chissà cosa costa, non so neanche, perché è quella l'ultimissima novità del campo della verniciatura. Però queste vernici ad acqua non vi hanno mai dato problemi, come per dire, se fa una macchina che si scolorisca subito, tutte queste robe qua. Io ho poca fiducia a queste vernici ad acqua. È presente che dal 1990 tutte le macchine sono verniciate ad acqua, per cui non c'è problema. Il problema è nascere all'inizio che i pigmenti, soprattutto quelli rossi, sono delle terre, chiamiamole terre, si chiamano vulgarmente le terre, sono prese tipo l'argilla e cose del genere, ossidavano, per cui diventavano rosa, non so se l'avete mai visto, le oppe, le punto rosse diventavano rosa. Questo problema l'hanno sopperito mettendo delle sostanze, degli additivi, diciamo, per evitare questa ossidazione. Poi le prime macchine addirittura non erano neanche col trasparente, e i primi esperimenti che hanno fatto, infatti in Isciani ci passavano le mani sopra, no, ma sono stati risolti alla grande quei problemi. Naturalmente i rossi sono quelli più delicati rispetto ad altri colori tipo il nero e il bianco, ma tutte le macchine sono verniciate ad acqua. In carrozzeria devi utilizzare prodotti all'acqua per legge, a parte piccolissime quantità da utilizzare in macchine d'epoca oppure anche macchine moderne, però sempre in limitate quantità, perché non si può usare vernice al solvente in nessun caso. Per cui l'unica cosa sono i trasparenti, sono ancora solventi, ci sono all'acqua ma non sono ancora affidabili, ti danno un sacco di problemi. Già da qualche anno stanno cercando di metterli in commercio, ma anche le case madre non fa, perché non hanno fissaggio, rimangono tipo quando ti metti a verniciare e fare colature, ti fa questi effetti strani, difficile applicazione, per cui anche se qualche grande casa costruttrice sta provando, li ha messi in commercio, ma noi li abbiamo provati qualche anno fa, ancora non c'è niente di efficiente, stiamo usando quelli trasparenti a ultra alto solido con pochissima quantità di solvente, e sono prodotti eccezionali quelli lì. Ok, di nuovo a te Gianni, e poi passerà a Michele, il Mike a Eugenio. Sì, ma io l'ho notato, per dire, nella opera a me mi aveva fatto tutto il trasparente, mi era uscito tutto il trasparente dalla cappotta, dai montati degli sportelli, dal cofano, tutto il trasparente, c'era tutto rovinato. Allora, quello è un altro problema Gianni, quello è un problema di lavaggio, soprattutto le persone che vanno in questi lavaggisti, non per parlare male dei lavaggisti, a poco prezzo, a 5 euro ti lavano la macchina, prendono quegli spray, quei liquidi bianchi che sembra detersivo, ti sputano tutta la macchina, attaccano la lancia di lavaggio a 100 bar di atmosfera e te ne togli anche le rumacchine da gabbo, oltre che la vernice. Quando asciuga questa cosa rimane sempre una patina sopra, soprattutto i colori scuri, quelli sono a base di soda, sono sostanze molto molto aggressive, loro per fare fretta dovrebbero diluirli massimo al 3-5% per lavare la macchina, ed è anche tanto, li portano anche al 10-15%, usano lo stesso prodotto che usano per lavare i cerchi, per toglierne quelle mucchie nere, che ci vuole roba potente. C'è soda, tu fate conto, d'estate la capota della macchina arriva anche a 80 gradi ed oltre, tu c'hai un acido a 80 gradi e te ne mangia tutto. Ne stiamo riprendendo una marea, sia macchine che fari, soprattutto i fari, il policarbonato ne facciamo una marea, si raschia a fondo e si rivernicia. Quelli che assumono più calore sono le macchine scure, il nero in assoluto è il più, quello che assorbe più di tutti, e poi a salire quello che assorbe meno di tutti è il bianco, quello che ha coefficiente di condizionabilità termica più basso rispetto al nero. E quando tu c'hai 80 gradi, li butti un acido a 80 gradi, a vedere ti brucia anche il pavimento, per cui il lavaggio è meglio evitare di utilizzare liquidi, anche gli shampoo di centromercato, lavare ad acqua naturale, quando c'è roba aggressiva da togliere, insetti, sapone, quello dei capelli, e lo shampoo neutro dei capelli, appena appena una spugna morbida e la macchina ti dura una vita il colore. Lo so, sì, è vero. Quella specie di neve che mettono della cosa bianca, quello lì dovrebbe corrodere. Sì, già lo credo, mettitelo nelle mani già, e lavate le mani con quello e poi mi torni la risposta. Se te ne cade un pochettino, è come che stai usando la soda, magari non così aggressiva, però è come che c'hai un solvente fortissimo, e tu che te ne toglie, quello te ne toglie cosa, magari con quello sapone Marsiglia, che sembra una cosa delicata, quello è fortissimo, lavi i motori con quella roba lì. Cazzarola. Lo so, però tante volte la fretta, la cosa le fai così, uno se c'ha il giardino può lavarla, la macchina in campagna, ma se non c'ha posto per lavarla per forza deve andare dal lavaggista, dove la lavo? Allora, io qualche volta per comodità io me la lavo a casa, c'ho la possibilità, c'ho tutto, però molte volte se in fretta dal mare ne stai salendo, io vado alla Pinuccio Sanna lì punti, dalla 131, ti usi l'acqua bollente, l'acqua calda, saranno 60 gradi, te la lavi tutta, le passate di acqua calda in modo che ti togli gli insetti, dopodiché te la lavi con il coso, acqua desalinizzata, in modo che non ci lasci neanche il coso del calcare. Camminando, se sulla rasso della macchina è uno specchio e ti dura un'eternità il colore. E poi se c'è qualche insetto, qualcosa non esce, ti porti una spugna con un secchio con l'acqua e appena di shampoo per i capelli e vedi la macchina esce benissimo. Io non asciugo neanche quando vado lì e tu ti usa schiuma, cera, non devi usare niente, più prodotti metti e più danni fai, soprattutto le fatte in plastica. Vai Eugenio. Io con la macchina nuova, che magari tu non conosci, che ho cambiato, vado spesso al tunnel lì a sta mercato. Bravo, sì, Eugenio, guarda che colore è la tua, ricordamelo, me lo ricordo. No, tu questa non l'hai vista, fumo di Londra. E appunto, tu guardatela, mettiti sotto il sole, contro luce, e poi ti vedi tutti i segni dei cerchi. Io ho visto una macchina ritirata il venerdì, me l'ha portata in officina per farmela vedere, nuova, ritirata da poche ore. Io l'ho guardata, questa è una macchina vecchia, non è, no, l'ho ritirata adesso, c'ha un'ora di vita. L'hanno lavata con gli spazzoloni, loro dicono spazzoloni contro la polvere, antipolvere, antitomballe, perché la polvere si attacca al massimo dei microgranelli, di cose di punto di spillo che neanche vedi a occhio nudo, come gira la spazzola col vento, il coso ti graffia tutto, soprattutto i colori neri te ne accorgi, si vede tutto, infatti basta che ci passi un dito e c'è un granello di polvere e te lo graffi. Noi abbiamo addirittura l'antialone, quando uccidiamo le macchine nere usiamo la pasta ultrafine per togliere questi graffi qua e poi gli dai la cera antialone e ci vede. Me ne hanno portato una oggi in officina, una Ford, non Ford, fuoristrada della Opel, non mi ricordo come si chiama, un colore scuro, era tutto segnato di questi cazzo di lavaggi velocissimi, ma va bene lavare camion, macchine vecchie, ma non macchine nuove, così. Ma la cosa è che prima ti sputano lo shampoo, no? Lo shampoo, poi te la lavano bene con Pulivapor, quando è sciacquata bene entri dentro il tunnel. Ma io ho una vita che non mi è mai successo niente. No, non è che ti succede niente, te la guardi contro luce, ti vedi tutti i segni delle rotazioni delle cose, delle spazzole, anche se dicono stiamo usando spazzole antigraffio, antipolvere, cacchio, la polvere nell'aria, Luigi, tu la polvere in una macchina, sei un ambiente sterile che non entra niente, ma non è il caso di questi impianti, già l'impianto funzionando con il calore che genera fa carica elettrostatica il motore e si attira tutta la polvere e poi c'è la idea, non sabbi lì, non farti prendere in giro, io gli spazzoloni mica, qualche macchina vecchia così che ci avevo per fare in fretta, per vedere solo come funzionavano, ma non per criticare il lavoro degli altri, ognuno fa quello che vuole, però meno prodotti messi, ricordate, sulla verniciatura ti dura molto ma molto di più. Vai Gianni. Vabbè, io la lavo a Canica, gli spazzoloni me li hanno fatti toccare, solo in spugna praticamente, solo col materiale, se non so se c'è presente quelle spugne che si usano per pulire il lavandino, dico la spugna lì, quella morbida, e mi hanno detto che quelle lì non graffiano le macchine, invece gli altri tipi sì, perché sono di un altro materiale. Non è la spazzola che graffia già, ricordatevi, non è la spazzola o queste striature, queste specie di come si chiamano, adesso non mi viene il nome, è la polvere che si accumula su queste spazzole. Prima usavano tipo la spazzolone per lavare in terra, quelle vecchie di vecchia generazione, adesso ci sono queste nuove, hanno dei prodotti che non graffiano, sono tipo il panno microfibra, quella come qualità, però quando la polvere ci va in mezzo, tu puoi fare chissà che ti piace, già la polvere ce l'hai in mezzo e gira e grazie. No, ma prima la sciacquano, prima con l'acqua, poi ci buttano quella specie di neve e poi va nelle spatole, non è che gli lasciano la polvere. No, sto dicendo, la polvere non dalla macchina, prima te la sciacquano per forza, se no te la rovina. Adesso parlo, la polvere che si annida sopra le spazzole, quando è fermo il macchinario, tu vai e ci passi dietro sopra, tira le, passaci le mani sopra, e vedi che c'è una specie di patina infinitesima, tipo barocco, di granelli di polvere che gira nell'aria, di qualunque cosa. Cacchio, e quella roba sono abrasivi. Ma ti cadono i cerchietti nella macchina, io nell'auto l'ho notato, l'ho guardato a controluce, se c'erano i cerchietti. Se te lo sto dicendo già, non esiste, cioè dovrebbero farlo in un ambiente stagno, sterile, in una camera iperbarica dove non c'è un filo di aria, che ci sono ricambi di aria. Io li ho viste le cabine di sfruttatura, quelle della Fiat a Cassino, che c'erano 30 ricambi di aria all'ora, che tu stai avventando in montagna, che non c'era un alone, era tutto sigillato, una cosa, ma stiamo parlando di altri generi di roba, per cui la polvere ti serve. Io vedo macchine nuove, comprate nuove la polvere, vedi il granellino di polvere in un angolino si è annidato, e dice cacchio, pure fatto un ambiente super sigillato, e figurati entra di lì, e cosa deve entrare in questi impianti all'aperto, che sono tutti all'aperto. Vabbè, riprendi Pizzeria, dai Robe, ci vediamo sull'officina quando capito lì. Mi ha fatto piacere, ragazzi, che la c'era il gioco di Zwa e anche di sonno, sinceramente. Ciao ragazzi, mi ha fatto piacere, alla prossima, come mi viene bene io entro, così continuiamo a scambiare quattro chiacchiere. Ciao ragazzi, buona nottata a tutti. Spero oggi stammi bene e buona carica quello che fai. Grazie per il questione. Avanti, Roberto. Ciao Eugenio, non è che c'entra molto spesso, comunque è sempre piacere riascoltarti dopo tanto tempo. Poi sai dove sono, quando vuoi basta, sei sempre ben voluto e ben accettato. Buona carica anche a te, adesso anche io chiudo, che vado a mangiarmi due fesserie perché prima di dormire ci vuole qualcosa da mangiare. Se no una volta mi devo bisogno che mi viene l'angolino. Ok, ciao di nuovo Eugenio. Io chiudo, saluto anche a Gianni, eventuali amici qua in ascolto, sicuramente ci sarà qualcuno, tutti quelli che stanno ascoltando, correte da parte mia. Ciao ciao. Ciao Robe, ci sentiamo, buona serata anche a te, dai, grazie per il questo. Ciao ciao a tutti, ciao di nuovo e buona serata, ciao. Mia Gianni, mia. Poi Antonino. Ciao anche Roberto, che ha fatto qua di tiro. Chi era che ha salutato? Io. Chi sei? Torino. Meno male, mi dopo tanto. Ehi cazzo, nel muso della sottotitola. Poco fa è entrato, coso, Mario ha portato il risultato, mi sembrava la voce, coso, Torino. Sapevo già solo mi avevate un bel accordo. No, stavo chiudendo, scusami, ma non mi posso trattenere per mangiarmi qualcosa. Ciao Torino, mi hai sentito dopo tanto e ciao a tutti quanti di nuovo. Quale ti ha parte di Cappa, vabbè, non c'ho problemi, dopo tanto perché ho avuto dei problemi, un incidente, basta, tutto qua, ora sto meglio. Ok, buon carica batteria, dai, ci sentiamo, lo sappiamo cosa deve fare, cos'è. Ok, avanti già. Sì, io Tony. E allora, mangiato, eh? Cappa, allora, mi sono fatto le mezze penne, carne al vento. Ah, sempre quelle che ti piacciono. A scuola, beh, carne. Allora, sono andato al veterinario, praticamente, ha controllato bene, no, non è altro cuccioli. Quindi purtroppo c'è il latte e allora ho dato dello sciroppo che devo dargli, c'è il misurino per 6 giorni e boh, perché se no il latte diventa pietra o casino, sta male. Quindi lo asciuga così? Cappa, e beh, se quello lo sciroppo li passa, capito? E io, niente, questo sta bene, peperonea, grazie a Dio, ho controllato tutto, la visitata, neanche bene. Meglio così. Già, io ripeto, ce li ho e me li tengo bene i cani, bravo, no, perché io già la prima cosa che ho detto, un cazzo, al latte è questa qua, e quindi se si mette a pietra, poi che devo salatarlo perché i cucci sono morti, che c'è un casino, Da una parte mi dispiace che sono morti i cucci, dall'altra parte sono contento perché, ripeto, non so, diciamo, sono nati già morti, quindi avrei avuto 4 cani, meglio una, rimane anche troppo, meglio due. Ma infatti, troppi sono. Oh, il posto già c'è, però è troppo, ce lo sai, cosa ci vuole mantenere un cane? Riuniamoci due e poi 4 ne parliamo, no no, già, io già mi sono pentito per ne preso due, comunque ormai ce li ho, sono affezionati, hanno, all'altro mese fanno 33 anni, poverini, sono affezionato. E io poi prendo di quel mangime che costa 50 euro sa. Tu pensa che io allora li ho viziati altamente bene, che mi ha detto che cosa? Io due o tre volte a settimana prendo il pollo, poi le crocchette, poi prendo cosa per le ossiche, per i denti, per l'alito, eccetera, eccetera. Insomma, li faccio cambiare, quindi ho sempre il mugge, diciamo, anche per mettere in mezzo le crocchelle, poi prendo quelle crocchelle di marca che costa di là 16, 20, 22 euro, insomma. E sono soldi, già, fare così, ma se vuoi, dei cani, animali, o li trattate bene, o li inviti. A me non mi piace da ieri, pigliare un cane e muoio la bandoleggia, no, oppure lo lago la barca e mangiare la bocca alle 3D, dai, e anche te, tu così ti tratta da te. No, no, no, io se vedo che ho trattato male il cane mi dà fastidio, è meglio che non lo vedo. Pure a me, io sono uguale, e non solo i cani, tutti gli animali. Sì, sì, ma è uguale, io quando ho messo su Facebook uno che ha legato un cane a guardare che se mi fa... Non esserci io in quel momento, avrei legato un gutto, però l'avrei trainato con la macchina mia. Quello che l'ha trascinato. Aiuto. E poi tempo fa quei video che ho il cane con la piano city che le brucia, mamma mia, se vedo io già l'avrei sparato per un colpo di picco, gliel'avrei ficcato in gola e fatto uscire la ciabatti. Ehi, c'è gente un po' crudele. Io mi ricordo che quando ero piccolo questo qui ha portato in una casa abbandonata un cane, si è sentito uno sparo, poi poi ci ha mandato e mi ha trovato il cane morto. Pesce, sì, che per entrare? No, mi è sembrato che non c'è tra qualcheduno. Ma cosa vuoi dire? Già, vabbè, purtroppo la vita è questa. C'è gente brava, c'è gente cattiva, però uno che prende un cane, poi lo abbandona, a me no. No, mi dispiace. Ecco, dove puoi tenere? C'è quella famiglia brava che ama gli animali, e lo dai. Se no non li ha. Se no non te mi dà all'inizio, fai prima. E infatti. E tu come stai a proposito invece? Io ho preso Lucky e sto un po' meglio, là. Però avevo avuto dei dolori allucinanti qua, da non poter resistere. Sono stato costretto, appena stavo cercando di fare di tutto perché non prenderlo, là. Invece non ce l'ho fatta. E matti abituale a questa medicina che già lo sai, che ci soffre anche il fegato, che benzina non è che andare a sapere. Io anche della protezione sono obbligato a dare medicine, se è un casino. Dimmi una cosa a proposito, guarda se mi cade il segnale che metto un pochettino più basso adesso. Guarda, 1, 2, 3, questo passaggio e questo passaggio, 1, 2, 3. Cos'è cambiato? Il secondo passaggio ti è calato il segnale. Di quanto? E di... penso 10 dB. 6 dB? E 6, 10, dai. Quindi sono, no, sono i 9,20 adesso, 9,25, boh. Ehi, Qua stai arrivando a fondo scalato. Ma sto usando il cobra io, dai. Sì, sullo 0 del 9,30. Se riesco a attenuarti tutto, arrivi i 9,10, che non mi arrivava nessuno questo segnale qua. Adesso a posto, poco fa attenuato a Roberto, era in ascolto, Santiago 5, attenuato tutto però, sennò anche Roberto 9,30. Roberto in alto, capito, per quello che va bene a segnare. E poi caso strano, ho sentito Gino, non so dov'era, caso strano, Santiago 9, mi arrivi di nuovo dietro. Che di solito porto quello se per te è negativo, vero? Ehi, da quando ho spostato l'antenna, l'ho messa fuori, ho messo quella veno, strano, se te conosce, vabbè, infatti ho intenzione di alzare quel palo. Te l'ho detto Natali, che va bene con l'antenna. Sì, per quello che costa già, è una cazzata, e va anche bene. Va bene, dai. Niente, comunque è preferito quei due cuccioli mettere una cassetta, sigillarla con della plastica e buttarla fuori lontano, ma non sotterrarli qua in campagna, perché qua già ne ha sotterrato uno, è l'angolino che ho io al cortile, e non mi va di sotterrare tutti i cani a me, no. Non sa mai per l'odore, eccetera, quindi ho preferito sulle parti esterne proprio. Ha giocato roba di 10 km, non me ne ha portenuta, una passeggiata e via. E le hai sotterrate? No, faccio sotterrate, le sotterri. E sono completamente minoriti che già manco va. Cos'hai fatto? Direi che te lo cassonetto? No, neanche cassonetto. Una scatoletta, metti dentro una busta in nylon bella sigillata, bloccata, e messa una parte, appoggiata a una parte dove non dà fastidio nessuno. Sì, vabbè, tanto sono piccoli. E poi c'è la trasfattatura, c'è la cazzone, cose, capito? Quindi non è che l'ho buttata ad esservare altre campagne, no, era anche sulla strada, quindi c'era un bel rientro, un bel piazzale, non dico dove, e c'era un bel po' di spazzatura. Intanto non ci vado a prendermi, sono morti, poverini. Anche a me mi dispiace, comunque era uguale al padre, a Snuffy, c'è che dace, uguale già. Perché anche gli altri sono incrociati con Jack Russell. E allora, peccato qua, sono fatte bellini qua. Vabbè, capire. Andare, comunque, ricordo, sta bene, quello che mi interessa è che la mammuta sta bene, per lei. Ma mi cambia la radio quando metto di fatto già. Prova. Questo è passaggio normale, 1, 2, 3, adesso 1, 2, 3. No, ma intanto di fatto. No, ti te la abbasso. Mi abbasso la voce. Sì. E allora lasciamo così. Ecco. 5 watt puliti. Sì, lasciala così, va bene. Però se attacco il presidente, può attaccare, come la voce è molto migliore. Oh, ma il presidente è sempre andato bene. A me esteticamente i presidenti non piacciono, ma la stazione base non lo so come, non ce l'ho presente. Magari la stazione base mi piace. Ma è venuto, ciao, lo smita il rotondo, già. S, Smart, Slash, RF, Power. Canale, questo si chiama il Zaccaristi. Quindi deve essere bellino, va. Se fosse come quello che c'avevo io, cioè che io ho avuto lo Washington. È bellino comunque già. A sinistra c'è un affare quadrato con tanti forellini, là c'è l'altoparlante. È tutto un bel baracchino, la verità, stazione fissa e sono contento, 220 se lo so ancora incorporato, è un po' più basso del Galaxy ed è un po' più stretto, sì, e anche come lunghezza un po' di meno del Galaxy, comunque, vabbè, se tocca i Mariglioni siamo lì più o meno, ma... infatti, ui. Domani che cos'è? Mercoledì, giovedì? Domani giovedì. Ai. Andare. E devo fare tutta la preparazione, mi devo anche rasare, non lo fanno loro. Perché non lo fanno, scusa? A me mi hanno rasato quando sono andato a operare lì. Lo devi fare tu. Te l'hanno messo nel foglio di preparazione. E loro non lo fanno, lo devi fare tu. Sì, vabbè, non è che c'è un problema, rasarsi la gamba, mi sentirò un po' ghiotto. Vabbè. Niente, io domani devo fare cose, cavolo, domani c'è anche quello lì, c'è noi, mamma mia, cara. Allora, venerdì devo svitare, volevo andare a trovare Luigi. Però, purtroppo, sono incagionato domani, perché viene quella lì. Rinvia. Cosa? Rinvia allora Luigi. No, ma se no che potete mai lasciuto voi. E allora no, vabbè. Vabbè, dai, cavolo. Adesso gli ha trovato un altro posto, come la mamma di Grazia, adesso gli ha trovato un altro posto. Addirittura la figlia che è una poliziotta. Occhio, stai attento, se io si impara. La figlia che è una poliziotta, non c'è la verità. Non è a Sassari, abita fuori. Diciamo, zona limitrofe di Sassari, non di Sante. Ah, capito. L'ha trovato subito almeno, dai. Sì, ma c'ha un culo, guarda, è fortuna, mola uno per l'altro. E lì tra questi due lavoretti, gira a gira, va a 1.100 euro, cioè non so male, dai. Non so male, no? E una è assicurata e l'altra no. Quindi. Una si zetta assicurata e quando dice accompagnami qua le metà che mettere di benzina. Ah, poi l'estate tutta agosto dal primo fino all'ultimo, fino a agosto gliela paga a parte e l'accompagna proprio la mattina a sera. E stare in cima al mare praticamente. E già si può fare. Ma questa è giovane, sufficientemi. Ma un mese di là. E dice che è mezzo scema, ma non è vero che è mezzo scema, figlia che ha rito cittadinanza, sta bene, la mamma sta bene, c'ha appartamenti che devi dare, se vuoi non c'è un peso. agito chi cambia rete c'è in azione, non l'ho avuto, non va, cazzo, si è giù a casa che praticamente abita dietro, forse sta bene quel palazzo di là mio già. C'è gente gonfia che non ha bisogno di lo prende, c'è gente che ha bisogno e magari si vergogna a chiedere, capito? Perché è stato sempre abituato a lavorare, si vergogna e non chiede nulla. E scappa. E scappa, intanto. E ho saputo che mi hanno chiamato al telefono ed è morto il padre mio comare. E quindi ormai faccio una scappata anche lì quando è sull'ospedale, poverino. Aveva quel male. Mastro Angelo Secchi, idraulico. Vabbè, anche lui ce n'è andato via, dai. Con me non perdona nessuno, poca gente si sa per quel male. E allora, perché di remoto la moglie è morta per il tumore del seno, che molta gente qua si opera e tutto a posto, tranquilla. Io conosco un'amica mia, Sperancina, che lavora nella scuola, Fidella, ha tutte e due seni e le hanno rifatte, grazie a Dio, con la bimba, e invece è sta anche bene. Capita, e chi c'ha un tumore del seno in bocca l'ha aiutato, ma dimmi tu. Perché a volte non lo prendono in tempo, capito? Non lo prendono in tempo e allora è così. Se ce la fa prendere in tempo, li amputano i seni e riescono a cavarne i piedi, capito? E invece se non lo prendi in tempo è un casino. Ma io prevedo le persone che poveracce, li fanno la morfina, fanno i dolori, chiede che tanto. Io faccio delle cose, se adesso vieni a me già dico fate una lezione, forse fate morire subito ogni tanto. Non voglio né soffrire io, faccio soffrire agli altri. Ah beh, non so, ma bisogna essere anche combattivi, dai. Magari qualcuno ce la fa, qualcuno ce la fa. Non bisogna lasciarsi andare così. Avevano detto che il veleno dello scorpione ti debellava il tumore, il cancro, ma fate le cazzate che dice la metà, non lo so. E quello che ha scoperto che debellava il cancro, il signore Di Bella, che poi non sapete niente, e poi Rosimindi, PD, aveva denunciato perché, beh, se perché c'è poco poco era vero, ma stai scherzando che la sanità poi non mangia più, non mangia, e lì faceva parte la sanità, e beh. Ma magari ne approfittava anche dei poveracci di quello lì, che chi lo sa se era una cosa veritiera o no, non era laureato. E comunque questa cornuta di Rosimindi, perché lo dirò a voce alta, lo dico, a me mi hanno bloccato su Facebook 9 giorni, penso un po', perché non dici la verità, però no, mi puoi bloccare su Facebook, ma la bocca me la blocchi mai, e non me la blocca nessuno. Questa cornuta, cosa vuoi dire, vecchiaccia, gallinaccia di Rosimindi, a parte quello, aveva chiuso parecchi ospedali che non c'avevano il minimo 100 ammalati ricoverati. È proprio malato di capo. Sì, oltre che essere bruttissima. Perché? Stanno parlando di mammolina, ma come decidono? Per Europa, decidono tutto, se ci va a pentire. Ma questo lei fa un casino. Questo bastardo fascistone, perché è un fascistone, vuol mangiare sempre lui. 13 anni al governo che non ha mai votato nessuno, lui è sempre messo al governo. A va che ha preso, non lo può variare. Ma guarda, gli sto così, ma perché non vado a ti ammazzi? Ma mi bloccano di più, di un mese minimo mi bloccano, ormai se la piglia luce. Sì, non ti fai usare la mano, tanto, vici, che adesso in poltrona va a dire che ci vuoi piacere tutti i canti. Uno peggio di lasso. Vabbè, sono tutti quanti. Adesso vediamo se questa Meloni fa quello che ha detto. Capito? Io voglio solo che togli questo rito c'è di alta perché ha rovinato parecchie persone e le sta continuando a rovinare. Mandroni non andrà a lavorare, date solo persone che hanno una pensione minima, tu puoi lavorare, va a lavorare, allora se non lutta. Purtroppo è così, purtroppo noi siamo dei poveri cristi che dobbiamo fare ciò che fanno, dicono loro e basta. E io dico questo già, e io la penso così perché ho sempre lavorato. Certo, se mi stavo a grattarmi le palle e a letto è ovvio che la povera non ce l'ho mai pigliato io il rito, ma è sbagliato, io ho sempre lavorato, mi sono sempre comportato bene, io più poco ho saltato un'azienda, sono 4 anni, poi dice a Fiume Santo, 25 anni qua e poi mi sono licenziato, e ho 5 anni con Beretta, non mi ricordo. Ma per dirti, io sto stato sempre bene, grazie a Dio. Ho sempre lavorato, mi sono sempre cercato lavoro, non mi è aiutato mai nessuno. E perché questi conduti devono venire con il cazzo alzarsi alle 11 a mezzogiorno? Tanto prendiamo il reddito. Fatto bene, se me lo dici, il reddito sono uno più felice del mondo. Però anche la destra si stava prendendo gli occhi uno con l'altro adesso, tra di loro. Allora, la colpa la do tutta a Berlusconi con testa di merda, quell'uomo gonfiato di silicone. E ti spiego perché. Quando tutti e tre sono messi insieme, la Meloni è chiaro e tondo, chi prende più voti comanda. Ok, tutti ci. È uscita Meloni, adesso Berlusconi non so cosa cazzo morire, ma ha finnati. Hai preso meno voti anche dell'altra volta. E Salvini lo stesso. Cosa di buono rompi le balle? Scusa, io lo seguo molto, scusa qua. E mi ricordo bene le parole di Meloni, chi prende più voti comanda, ed è così. E dovrebbero essere tutti d'accordo, dai, se sono a coalizione dovrebbero più o meno andare d'accordo, ma non è così. Diciamo che tutti quanti si sono messi insieme per cimolare i voti, però ognuno pensa alla saccaccia su. Ma guarda che solo Meloni ha preso un casino di voti, il 26%, sono un mezzo milione di italiani che l'hanno votata. Certo, messi tutti insieme e hanno preso un casino di voti. Come ha fatto anche il PD, che si è messo poi, si è pigliato Di Maio, adesso è fuori dal governo del tutto quello lì, ora si è messo da rimanere, per carità, poi si è pigliato il Babonino, ora Barigati, insomma lo scarto. Vabbè, purtroppo sì, dai, io sto andando che arriva a prendere la croccata e vado a pulirlo, dai. Ci sentiamo Torino, ci aggiorniamo per quella cosa là, ciao ciao. E al 100% già, non c'è problema, adesso spero che mi guardo la TV. Ok, ciao, stammi bene, buona cena quando la fai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.